Cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? No, ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo lo faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Pronto, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Tra gennaio e maggio avete una bellissima situazione, poi dopo parlo dei grafici, li abbiamo fatti anche quest'anno, vedrete quanto è interessante questo oroscopo. E così anche nel lavoro, e tutta la prima parte dell'anno parla di grandi successi. Tutta la prima parte dell'anno parla di grandi successi. Tutta la prima parte dell'anno parla di grandi successi. Allora io mi chiedo, se i treni che vanno da Milano a Napoli hanno come avranno i posti separati per cui una persona per fila, lei è sicuro che questo non sia gestibile una volta arrivati a Napoli? Sì e no, dipende. Vediamo di capirci bene, Vespa, perché io divento molto insofferente con il passare degli anni alle banalizzazioni. Noi dobbiamo avviarci verso la vita ordinaria, ma usando la ragione e non dicendo banalità. Nessuno vuole mettere le barriere, i New Jersey, i cavalli di Frisia da nessuna parte. Perché se la situazione è questa, e in alcune regioni non c'è quasi più il contagio, ma in altre regioni abbiamo ogni giorno 1000 nuovi contagi, beh, credo che un elemento di prudenza debba essere mantenuto. Questo è tutto. Capito? Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Sembra quasi che questo signore italiano abbia ammazzato qualcuno e fanno la voce grossa. Tu non puoi maltrattare un italiano. Giuseppe Conte, stai attento! Un invito, fai cominciare a lavorare, la gente non ne può più. Matteo! La polizia su quegli scooter. Ah, ma quanto mi ame! Dillo a tutto il mondo! Tutta la vita! È abbastanza chiaro che spesso nel meridione si soffre di un complesso di inferiorità. Io invece non penso che soffra di un complesso di inferiorità. Penso che siano inferiori. No, è possibilissimo! È sempre in diretta dal bunker di via Monterosa 91 in Milano. Eccoci qui, vivo e vegeto. Quasi me la tiro ogni tanto, me la tiro come se mi dovesse arrivare prima o poi il coronavirus addosso. E vabbè, me lo prenderò e chi se ne frega. Nel bunker del Mossad, David Parenzo, eccolo qua. Buonasera, allora, cari amici vicini e lontani. Mi giunge notizia sentiamo che oggi la diffamazione di oggi. Mi giunge notizia che oggi il signorino lì in via, una via pratica è con la V di Venezia. In una via che è quella nel quartiere adesso Prati. Mi trasferirò ai Parioli, così non rompete più i coglioni. No, davvero, non questa notizia. Mi trasferirò ai Parioli. La cosa è questa: mi dicono che abbia fatto un collegamento dalla 7 nel suo enorme salone. Mi suggeriscono nel suo enorme salone. Ma chi è? Se io scopro, ti giuro, chi è il delatore? È la televisione. Che delatore? Se io lo scopro, chi è? No, perché secondo me c'è qualche fonte interna. forse alla, che c'è qualcuno che se io scopro. Allora, comunque, hai fatto un collegamento dal tuo enorme, sì, lussuoso salone, perché ti sentivi in colpa di andare in terrazzo. No, piove. Perché piove a Roma? Se ti sentivi in colpa. Ma cosa dice? Verificabile. Aspetta, hai fatto un collegamento. A Roma piove. Hai fatto un collegamento. Un collegamento dal tuo lussuosissimo salone. Ampio. Dalla sala. Ampio salone. E mi segnalano che ogni tanto arrivava qualcuno con un vassoio. A porgerti dei dessert. Pare un gelato costruito bene. Io dico solo questo. Nessuno la gente mandavo io in cucina a prendermi dei pasticcini da te. In 30 metri quadri in quattro, lui in un ampio salone. In un ampio salone con la servitù. In televisione. Ma non c'era nessuno delle due, nessuno. Dico solo questo e basta. Riprendiamo ovviamente da che cosa? Riprendiamo dal caso del giorno. Il caso del giorno riguarda il direttore di Libero Vittorio Feltri. Diciamolo subito in maniera molto chiara. Una vergogna assoluta. Viva la libertà. Tu lo hai, io voglio dirlo qua, lo hai come al solito coccolato, accarezzato. Beh, non c'è dubbio. Ha detto delle cose vergognose. Io speravo che ieri chiedesse scusa a tutti gli amici meridionali. Ripetute dall'amico Giordano la sera, fuori dal coro. Sì, quello con Giordano che rideva pure, Mario Giordano. Ragazzi, scandaloso, dai. Ma quale scandaloso? Libertà di espressione. Alcuni lo stanno denunciando alle procure. Alle procure, ma chi? Ma che procure? Ma non è che i meridionali. Togliete Iervino, quali ridicoli. Può anche aver esagerato dicendo questa cosa. Io non ci credo a questa roba qua, ovviamente non ci credo. Lui però intendeva inferiori economicamente, non dal punto di vista antropologico. Gli tieni il bordone. L'inferiorità economica è un'inferiorità economica, mi sembra evidente, mi sembra anche fattuale. Dunque, non è che uno è inferiore perché c'ha il cervello più piccolo, è un'inferiorità, diciamo, di alcune cose. Ma la denuncia, io dico, che cazzo di senso ha la denuncia di oggi? Avvocati, a parte i giornalisti, che chi se ne frega. Ma perché lo vogliono denunciare per cosa? Denunciare per che cosa? Per che cosa? Non ho capito, per attentato ai meridionali. No, ma la denuncia. Il tribunale, cosa vuol dire il tribunale? L'ordine dei giornalisti dovrebbe prendere dei provvedimenti ancora con questa vicenda qua, stronzate, dai. La serietà delle informazioni. Partiamo da quello che è successo qui alla Zanzara. Ieri sera, intorno alle 19:50, a un certo punto. Contemuto, ricordiamolo agli amici napoletani, agli amici del sud. Contemuto, lasciando me da solo a combattere a mani nude. Ho già dei problemi a Napoli. Ho già dei problemi. Tu me li devi aumentare ancora una volta. Muto. È abbastanza chiaro che spesso nel meridione si soffre di un complesso di inferiorità. Io invece non penso che soffrano di un complesso di inferiorità, penso che siano inferiori. Nel senso che tutta la loro economia è un disastro, da decenni, direi da un secolo. Tentano disperatamente di risollevarsi e non ci riescono, quindi evidentemente c'è un gap che non riescono a colmare, ma non mi sembra una cosa così strana, diciamo, così nuova, cioè è la fotografia della realtà. L'ha pure spiegato, ma che cazzo volete con queste accuse? Ma cosa c'è da spiegare? Ma cosa volete con queste follia? Accuse? Ma non si può spiegare la follia. Cosa vuol dire l'ha pure spiegato? Ha spiegato un'idiozia, ma un'idiozia non si spiega. Cioè, tu sei d'accordo, per esempio, con questo qua, con questo tizio qua, per esempio, sei d'accordo? Dillo, aspetta, ti faccio sentire. Ti faccio sentire, non ti dico manco il nome, ma te lo faccio sentire. Sei d'accordo con questo? Senti. Questa gente che andrebbe arrestata, nemica giurata del popolo. Ma veramente stiamo facendo? Questi sarebbero gli editori seri. Vittorio Feltri ancora un pagliaccio che lo mettono a parlare in televisione. Se fa una grappa, si ubriaca e parla. Ma di che stiamo? Ma veramente stiamo facendo? Perché oggi sono veramente molto incazzati al sud nei tuoi confronti per quello che ma ti credo, ma ti credo. Che chieda scusa, ha usato parole insultanti. Ma chiedi scusa tu che sei un paperino rompicazzo e basta. E lui ride. Allora, questa... Io ho lasciato da solo, amici del sud, lasciato da solo a combattere contro questi due, da solo. Ma che da solo, a mani nude, solo mani con la forza nude. Della mia voce, delle mie idee, a mani nude, a parte... senza panoplia. Ti piace la parola panoplia? Ma sì, vuol dire corazza, lo so, bellissimo. Lo so. Senza panoplia, da solo a combattere, a mani nude. Così avete imparato una parola nuova. Nude. Panoplia. Ma sei con la voce collegata dal terrazzo, che io mani nude? Che... Con le mani ben nude, servite, lasciamo. Altro che! Con le mani nude, perché non tocchi un nude, cazzo! Lasciato non fai... da solo a combattere a mani nude, solo con la forza delle mie idee, della mia dirti, povera e timida voce. Posso dirti? Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti, avremo Matteo Salvini, avremo Vittorio Felti, il professor Galli. Poi cazzo, ma uno di sinistra nessuno, vabbè, Vittorio Feltri, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, non dice Giorgia Meloni. Tu oggi hai detto una tale cazzata che ti giuro mi veniva voglia di saltarti addosso a un certo punto. Hai dichiarato alla prestigiosa agenzia di stampa ADN Cronos, bravissimo, l'hanno ripreso tutti. È incredibile. Ha intervistato gli amici della ADN, ma hanno intervistato gli amici. Intervistano Parenzo per una puttanata che ha detto, una boiata in aiuto. Do solo questo titolo, ragazzi, do solo questo titolo. Sì, bravo, chi non canta Bella Ciao il 25 aprile è un nipotino del Duce. Ma tu sei completamente pazzo. Leggila tutta, però. Leggi la dichiarazione. Ma che la dichiarazione è questa, la sostanza? Estrapoli come al solito, fai copia e incolla, eccetera. Ho detto che i veri fratelli d'Italia sono quelli che cantano Bella Ciao, cioè i veri patrioti. Ma tu sei completamente sono quelli fuori. E io lo farò con la bandiera italiana e la bandiera d'Europa, perché l'Europa è non nazismo, non fascismo e non comunismo. Ma tu hai detto Bella Ciao. Grazie, hai detto chi non canta Bella Ciao il 25 aprile è un nipotino del Duce. Ma che cazzo dici? Allora ciao, io pure sono nipotino del Duce, non ho mai cantato Bella Ciao il 25 aprile, sono un nipotino del Duce, dai. Insomma, non dire cazzate. Nipotino no, ma dai. Però magari amichetto lontano. Ma che cazzo dici? Ma quando mai? Io amici da tutte le parti. Una risposta a Ignazio La Russa, quindi non è più articolo. Le cose come sempre sono più complesse. Sei vergognoso. Fatto sta, amici del Sud, che sono stato lasciato solo, a mani nude, solo con la mia voce a combattere contro Felti e Cruciani, che vi hanno insultato. Allora, sono dalla vostra parte. La premessa è quella che c'è stata la zanzara. In serata, notare bene la successione. Non pago. Tarda, sì, esatto. Prima serata qui. Tarda serata dall'amico Giordano si è offerto. Quindi di diciamo, cosa aveva già bevuto qualcosa attorno alle 19:30 quando era venuto da noi. Poi 19:30 è andato a cena. Ma gli stai dando dell'ubriacone? No, dai, ho detto, ha fatto l'aperitivo alle 19:30 e ha fatto la zanzara. Dopo aver fatto l'aperitivo, il Negroni, o non so che cosa, io non bevo i Negroni perché sono dei grandi negri, quindi semmai io bevo dei prosecchi, non bevo Negroni. Dopo aver fatto il Negroni, lui è andato a cena, come al solito, poi si è collegato. Ha bevuto qualche bicchiere di vino, si è collegato con Mario signor Giordano. Si è collegato con Mario e ha fatto queste altre dichiarazioni. Questa è la successione. Io credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in Campania. No, adesso mi fai arrabbiare quelli della campagna, direttore. Mi fai arrabbiare i telespettatori. Vabbè, no, ma io non ce l'ho con la campagna. No, non ti faccio arrabbiare. Cioè, sto semplicemente dicendo che io in campagna, io, te e altri, ma perché dovremmo andare in campagna? Ma a fare che cosa? I posteggiatori abusivi? Non credo che sia al vertice delle nostre ambizioni. Ma io dico, ma perché uno in campagna fa solo. Ma mi fa incazzare. E poi. Perché guarda il luogo comune, ma perché uno va in campagna a fare solo il posteggiatore abusivo? Sarebbe come dire io non vado, sarebbe come se un napoletano dicesse io non vado a Bergamo a fare il direttore di un giornale sconfusionato. Ma che discorso è? Vai. Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Adesso me li fai arrabbiare davvero, no direttore, non puoi dirlo questo. Ho denunciato Conte, non so se ha detto comunicato stampa. Pure tu hai denunciato Conte. Io ho denunciato Conte perché sono 60 giorni sto a casa. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio. Godo. Allora io, grande ascoltatore della Zanzara, non ho mai detto in vita mia queste cose a nessuno, però stavolta me le fai partire proprio dall'anima. Caro Vittorio Feltri, allora, il giorno che tu schiatterai, io vengo fino a Milano e mi faccio una grande cacata sulla tua tomba, va bene? Che non è un reato assolutamente, perché te lo meriti, razzista. Caro Vittorio Feltri, gli anni sono passati, anche per te. Hai fatto il tuo lavoro, se si può definire lavoro, ognuno giudicherà come, però adesso, per favore, vai in pensione e non romperci i coglioni. Stiamo aspettando l'Italia, in silenzio, in tacito assenso, stiamo in silenziosi, silenti, aspettiamo. Molta gente nelle case non esce da 40 giorni e poi mi sento sto coglione in diretta nazionale che deve ingiuriare i suoi connazionali. Sei un coglione. C'è rabbia nei confronti di Vittorione, eh? C'è rabbia nei confronti di Vittorione. Feltri, fermi tutti, Feltri ancora. Proseguiamo con Feltri, perché ieri è stato comunque da Giordano spettacolare. E si portano i negri per sfruttarli nei campi. Senti. Mentre c'è un tentativo che non si esaurisce mai, di sfruttare i poveri negri, cioè farli venire qui, regolarizzarli e poi dargli 3 euro all'ora. È chiaro che questo è sfruttamento dell'uomo sull'uomo, quindi io, richiamandomi anche ai principi del marxismo, dico che tutto ciò è sbagliato. Uso anche l'iPad, purtroppo. Senti, mentre un tempo usavo fino a qualche anno fa la macchina per scrivere con la quale mi trovavo meglio, e adesso devo usare l'iPad che mi fa incazzare perché scrivo e verbo e esce e congiunzione, scrivo e congiunzione e esce e verbo, e una serie di errori che poi devo correggere a mano e tiro delle bestemmie orrende. Per fortuna che Bergoglio non mi sente. Scusa, io penso che non ci sia grande differenza rispetto al contenuto tra e verbo e congiunzione negli articoli un po' sconfusionati del direttore Feltri. Comunque la scena di lui che batte sul suo iPad e che scrive della parola negro e invece viene fuori la parola, una parola diversa, perché io scrivo negro e viene fuori invece la parola meridionale, a me questa cosa qui fa incazzare, anche se spesso le due cose coincidono, perché tutti i meridionali sono negri e tutti i negri sono ovviamente meridionali, perché al nord non vedo persone nate negre, ovviamente, quindi potrebbe essere uguale. Ma scusami, ma non hai vista quella notizia là di un paio di giorni fa, che quei medici per le cure al fegato dopo il coronavirus cinesi, l'ho letto su Libero, cinesi sono diventati improvvisamente neri. Da gialli. Il titolo di Libero era: da gialli diventano negri, ecco gli effetti del coronavirus. Questo è Libero giornale. E se io non voglio, veramente non me la voglio, perché sennò sembra che uno se la prenda sempre con Libero, la verità e quanta. Però ragazzi miei, dai, niente, non una parola. E quello allora, sai, non sai, una parola, ti puoi ispirare, niente. Ti puoi ispirare qualcosa, perché questa avete cosa? Così paura a ribellarvi a questa roba? Ti può ispirare qualcosa il fatto che le persone siano diventate negre improvvisamente, che siano delle scure? Penso che accadesse, che ne so, a Mauro da Mantova o a Donato da Valle. Varese, no, Dio non voglia, naturalmente sarebbe, non voglia sarebbe una cosa di ammalarsi, no, di coronavirus, guarire e svegliarsi negri con la pigmentazione con la pigmentazione nera, meraviglioso Spadalino che meraviglioso. Si sveglia pensa negro. A Borgonovo ad esempio, ma anche semplicemente Borgonovo che si sveglia di colori, cioè, ma che non cazzo? Lo conosce nessuno, cioè, Borgonovo di Libero di scusami della Verità, che è costretto a scappare per la cessione negro, cazzo come mai mi inseguono, mi chiedono i documenti, come mai, io sono Borgonovo, no sei negro, sei diventato negro, sei nero, no ma io sono Borgonovo della Verità. Pazzesco, c'è anche Feltri contro i Roma, dai, c'è anche Feltri contro i Roma, vai. Ah beh, normale, è normale. Io dico soltanto che di Rom gentiluomini ne ho conosciuti pochi, mentre di Rom sciacalli ne ho conosciuti tanti e questa sera, grazie al tuo servizio, ne ho conosciuti altri. I Rom sciacalli, che credo che occupino le anch'io case. Anch'io di giornalisti, di bravi giornalisti ne ho conosciuti tanti. Sì. Ho conosciuto anche qualche giornalista un po' così, ecco, qualcuno un po' così. Allora, Porro contro De Luca, dai, andiamo con Porro contro De Luca. Prima dice, sai che Porro è uno di quelli che sostiene libertà, apriamo tutto, Porro, eccetera. Una volta era un liberale. Anch'io sì, mi sono, io liberale, ormai però. mi sono ho sposato quest'idea del libera tutti, perché tanto non ne usciamo, se no ne usciamo. Libera tutti, tra l'altro, ma abbraccio fortissimo. Ragionato, costruito, regione, coordinato, abbraccio un medico immunologo che ha fatto oggi un'intervista in cui ha detto che il virus si spegnerà da solo, che il ritorno alla vita normale non è così lontano. Io tutti quelli che ovviamente non hanno nessun dato a disposizione, però tutti quelli che parlano così io li abbraccerei. Cioè, invece oggi preghiamo, no, ma li abbraccerei, nel senso che ormai, siccome sono tutti quanti peggio del divino Telma, questi qua, tutti peggio, a quel punto prendi la cosa migliore, perché devi prendere la cosa peggiore? Oggi c'è uno, il solito, lo conosco benissimo, grande personaggio, lo conosco, l'abbraccio, Pregliasco, lo vedo ogni tanto da Del Debbio, il quale ha detto, fosse per noi medici, fosse per noi virologi, il lockdown durerebbe ancora dei mesi. Ha detto dei mesi, ma io mi prendo a Roma. Ma non devi dire un ma è una cosa da roncolate. Ma che di che parliamo? Ancora mesi? Ma per la tua salute, per la nostra, non è che lo fa perché gli piace. Ma c'è gente che sta impazzendo dentro casa, sta morendo. Ma ha detto se fosse possibile, ma non essendo possibile, non si farà. Guarda Becchi come è ridotto, che è impazzito. Il professor Becchi, ma Becchi era già non è che è impazzito. Scusami, correggo, non è impazzito adesso. Becchi era già un po' disturbato già prima. Io vorrei vivere a New York in questo momento, perché nonostante sia martoriata più di Milano, io so che l'America ce la farà, mentre noi purtroppo siamo talmente coglioni che non ce la faremo. Quel De Luca là che vuol fare lo sceriffetto, che dice che non arrivano dal nord, io voglio chiedere toc toc! Senti De Luca, ma a Capri, ma ci vai tu con i soldi pagati dei contribuenti? Toc toc! De Luca, scusami, ma tu a Ischia ci vai tu a farti bagno bello pulito con i tuoi amichetti che gli paghi con i soldi dei contribuenti? Toc toc! De Luca, a Pompei te lo riserviamo soltanto per te, no? De Luca? Sei così contento, caro De Luca, che fai tanto lo sceriffetto, il fenomeno, che mandi a fanculo tutti e poi dici delle minchiate incredibili come chiudere i confini della Campania? Francesco da Roma, avanti tutta ragazzi, iniziamo. De Luca invece c'ha ragione, deve Francesco tutelare il suo territorio. Allora, Francesco da Roma, stendendo un velo pietoso sul vostro siparietto, devo dire sì, abbastanza ridicolo di sghignazziamenti sulle battute di Feltri. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Metterci a piangere? Condannare? Stare lì col ditino puntato? Perché no? Ma scusami, allora ti pare che in una situazione terrificante in cui siamo reclusi se ne debba uscire un direttore di un giornale e dirci che i meridionali sono naturalmente inferiori? Io sono di Roma, mi frega un cazzo, ma questa è una cosa agghiacciante. Ma perché non mettete in contatto questo Feltri con il paese reale? Il paese reale, che qual è il paese reale? Chiamassero qui, chiamassero. Ma faremo un feltri contro, faremo un feltri contro tutti, una faremo cosa del genere. Lui non si può mettere in confronto o in, ma perché non vai a pulire le, adesso stasera userò questo metodo, perché non vai a pulire le scarpe di feltri, cioè vai a pulire, ma perché, ma perché non vai a leccare il culo a feltri, vai a, vai a pulire idiota. I cosi, vai a pulire, guarda, mocassini, io, sai, perché ha tanti, mocassini, vai lì e pulisci con i coni. Per quale motivo? Dimmelo. Perché c'è la libertà di espressione, capito? La libertà, la libertà. La libertà, no, questa non è una libertà. Ma chi sono i meridionali poi? Qual è ma offesa grave, chi è la, l'offeso? Scusa, chi è l'offeso? Il popolo meridionale? Le offese sono le singole persone. Che non esiste il popolo meridionale, non esiste. Ha contribuito a costruire l'Italia. Giovanni D'Avellino. Questa differenziazione è ridicola. Giovanni D'Avellino, vai Giovanni, dimmi. Ciao, buonasera, sono Giovanni, chiamo da Lentini, a Slufra. Sì, vabbè. Allora... noi siamo... io non sono incazzato con Feltri, assolutamente. Da dove parli? Dal Regno delle Due Sicilie? Da dove parli? Esattamente, dal Regno delle Due Sicilie. Ma lì si vende libero o no? Nei suoi territori, siccome non si vende al sud libero. Io mi sento liberissimo. Ma non ha capito un cazzo questo, dimmi, dai, forza. Allora, io vorrei dire un po' a Feltri. Vengo un po' giù a Slufra a vedere il polo conciario. Che cosa produce? Sì, vabbè, ma le che scarpe... vuol dire? Ma non, no, è, cioè, ma non è quello il punto. Ma ha fatto... le scarpe che lui ha allora... in piedi sono prodotti a Slufra. Noi, noi serviamo allora, le scarpe, è una risposta. È la grande azienda Marinella, ad esempio. Allora, Marinella? Anche l'azienda, è una grande azienda, l'azienda o no? Marinella. Zitto un attimo. Feltri ha risposto al governatore De Luca, che ha fatto, diciamo, lo gradasso con la questione dei confini, dicendo, vabbè, dice, facendo una fotografia dell'economia inferiore economicamente. Dopodiché, poi, se ci volete vedere una cosa, diciamo, etnica o una cosa antropologica, una cosa della... noi non cazzi siamo nostri inferiori, no, noi cazzi con le nostre assicurazioni. Ma chi ha detto? Lo dice... le banche del nord. Fermo, perdiamo fermo le banche lì del nord, quelle che fermo ci hanno... lì. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. La Zanzara. Zacchi, provincia di Monza, vai, Zacchi, provincia di Monza. Allora, innanzitutto faccio il favore di levarti quegli occhiali da sole, perché tu è evidente che vuoi imitare Howard Stern, però risulti solamente un buffone con gli occhiali da sole al chiuso. Quindi levateli, dopo, così dopo almeno, che hai detto, dopo che hai detto così questa almeno puttanata, risulti un buffone e basta. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Cruciani al telefono, ma c'è con gli occhiali da sole. Ha mandato da Rosita Celentano. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Vedo molto negativo. Io mascherino non poito e mi sbatto un taminchia a Conte, a Brusaferro, a Pregliasco e a tutti i cognuti che so. Non hanno la verità in tasca. Io credo a Tarro e credono a tanti altri che la pensano come lui, a Montanari. Quindi un scassata la minchia, un cinema né fase 1, né fase 2, né fase 3. Fenero tutte cose, italiani, torniamo a vivere, apriamo i negozi senza barriere e senza niente. E non ne facciamo rompere un cazzo questi quattro coinuti corrotti maledetti a Big Fime e o 5G, o signor Colau che era una Vodafone. O mi rompete la minchia che faccio succedere un po' di italiani, scendiamo in piazza, italiani! Lo pare che aveva facendo Franca, che hanno iniziato in nella vazza vale baita ora i negozi, le barriere, un chissano che aveva 30 copette e non riesce, e però deve mantenere il personale. Ma che gioco giocate, merde, merde, figliere bottana, nazi, annazzero Join, ci riprenderemo la libertà e voi dovrete scappare dall'Italia, tutti quelli che ci hanno messo per 2 mesi ai domiciliari, e chi è il loro complice? Se ne va a chiedere nell'Italia, a va a scappare perché scassamo tutto. Quando è che i medici hanno dominato? Hanno dominato durante il nazismo nei campi di concentramento, sperimentazione fatta sugli ebrei. È una cosa terrificante, perché c'è Mengele, cioè, dici... e c'è Schweitzer, sono due medici. Mengele sperimenta sui malati. Stiamo arrivando a una dittatura nazista. Ma mio nonno più che consigli avrebbe fatto molto meglio di quello che sta facendo la politica. Mio nonno avrebbe fatto in modo che l'Italia andasse giovedì a Bruxelles con un piano cazzuto. Avrebbe fatto in modo che non arrivassimo all'ultimo come stiamo arrivando. Un grande Lapo. Zior Lapo che dice. Ma è il vero Lapo, no? È ma sì, no, di ma Lapo, è vero, dai. Ma stai scherzando? È dappertutto, sai che ma fa queste cose di filantropia, di beneficenza, di raccolta fondi. Mio nonno. Avrebbe fatto meglio. Avrebbe fatto meglio. Una cosa incredibile, dai, incredibile. Comunque, ragazzi, posso dire una cosa concretamente adesso, seria. È ora che i virologi, quelli almeno che si presentano sempre in televisione, eccetera, tornino. Ormai se ne sentono di tutti i colori. Ci vorranno ancora mesi. Sono due se correnti è meglio, di pensiero. È meglio due che correnti. Ritornino a fare il loro lavoro di laboratorio, bellissimo. Ogni tanto vengono interpellati come sta andando la sperimentazione su questo farmaco, come sta andando di qui, come sta andando di là, eccetera, eccetera. Perché ormai ci siamo resi conto che l'unica cosa da fare è che i politici, quelli che abbiamo votato, prendano delle decisioni e questi qua basta, tornino in laboratorio. Devono sapere come va avanti la sperimentazione. Sì, va bene, benissimo. Ma io non capisco, te la prendi, sì, incredibile, te la prendi con i virologi e non con Vittorio Feltri che ha insultato tutte le persone che abitano al sud. Guarda che sei incredibile. Cioè te la prendi con i virologi e su Feltri non dici nulla. Sei una persona incredibile. Mi alzo alle 4:30 di mattina, 4 ecco. Di mattina e medito un'ora, sono a San Moritz che sto andando un'ora? In barca e niente, ti penso, ti bacio forte. Ciao fratello. Una brava persona però Lapone, no? Allora Becchi dice che è stato fermato è da simpatico una, Lapo da una, sì, molto. Una, da una pattuglia della polizia. Però è normale, Becchi, insomma, non è che... Becchi. Sono sconvolto, forse come potrete notare. Esco per fare un minimo di spesa, per comprare due medicine, come potete vedere. E vengo fermato in modi veramente scortesi. Una pattuglia di polizia. Documenti, favorisca documenti. Ma io scherzando un po' dico, ma non sono un terrorista, sto andando a fare la spesa, mostro anche le medicine qua in tasca. Non ci interessa, lei potrebbe essere distante, ma sono, vi abito qui, non ho documenti. Signor Becchi, Paolo Becchi. Ma dico, non ce l'ho il documento. Come non ha il documento? No, non ce l'ho il documento. L'autocertificazione neanche, so che se voglio ve la posso firmare. Guardi che lei non sta neanche a un metro di distanza, dico al poliziotto che si sta avvicinando con insomma con molta forza, ecco, no? Io certo comincio un po' a urlare nel mio carattere, urlo, no? E dico, urla, ma insomma, urla. Sembra il modo di trattare una persona anche tutto sommato anziana che ha una certa età, eccetera, no? Loro controllano, ormai è facile, risalgono al fatto che io sto lì e mi trovano da dire perché non avevo la mascherina. Io rispondo dicendo che non sono obbligato alla mascherina. Sono molto irritato, devo dire. Mi sono sentito trattato non come un essere umano, mi sono sentito trattato come una bestia. Ma... che loro possono controllare. Nei movimenti che sto facendo, nei passi che sto facendo, nel perché sono uscito di casa, che cosa ho comperato, che cosa ho fatto, mio Dio, ma che cosa abbiamo fatto noi? Non è possibile che a causa di un virus stiamo distruggendo la nostra esistenza. sempre un grande. Sempre quelli che hanno questo anelito. Sono sempre meglio quelli che hanno questo anelito di libertà. Di libertà. Io sai ma che sono stato libertà? Un grande sostenitore libertà? Non del lockdown, documenti. Però se tu giri senza documenti anche in un regime normale, vero, senza il coronavirus, te li chiedono e fanno i controlli. Ma certo, non puoi girare senza documenti. Ah, solo sì. In Inghilterra non c'è la carta d'identità. Salvatore, da se ma tu sì, vai, ma chi se ne fotte? Anche questa cosa qua è liberale, secondo me. Sei tu che mi devi rintracciare. Sei tu che mi devi dire chi sono o chi non sono. Che cazzo vuoi? Adesso sei contro le forze dell'ordine, no, pure. Sto contro le forze dell'ordine che ti controllano. Se uno ti chiede un documento, un poliziotto, tu glielo dai, non ce l'hai. Ti verificano e ti rompono i coglioni. Scusi, perché non ce l'ha. Mi chiamo e tu gli tot, dici mi perché chiamo io tot. Sono contro lo Stato, io sono no. Contro lo Stato, dici scusi contro che cosa? Chiamo, dici dove mi porti in questura? No, la porto al pronto soccorso, non in questura. Salvatore, io sono da contro Salerno. Lo Stato, libertà, libertà. Salvatore da Salerno, vai. Ridicoli siete. Dimmi. Non sento, la costiera amalfitana, non si sente un cazzo, sei peggio di Palermo. Ma non si può fare la radio in questo modo, dai. Francesco da Genova, vai Francesco. Francesco. Ciao Cruciani, senti un po', ti volevo dire. Francesco, dimmi, che succede? Hai rotto il cazzo questa libertà. Io non voglio che finisca questa cazzo di quarantena. Perché non vuoi che finisca avanti? Adesso c'è una sto scopando più adesso che mai. Sì, come mai stai scopando? Mi sembra difficile. Sei da solo a casa, evidentemente stai con la tua fidanzata, donna, moglie. Non no, so non che ce cos'è. L'ho fidanzata per fortuna. E come fai a scopare allora? Scusa. Tramite internet, sai quante cazzo di ragazze disperate si trovano adesso che non possono uscire, soprattutto sudamericane, a essere sincero. Mm. E allora? Ma sono prostitute, però. Ma non sono prostitute, le cazzo. No. E allora, non ho capito. Sono ragazze da che cosa? Non ho capito. Conosci, posso parlare di un sito? Ma sì, vabbè, incontri sui siti, d'accordo, ma come fai concretamente poi? Come fai? Cioè, ma no. Niente, fai dici due minchiate, due cagate, e vieni poi? A casa mia, vediamo un film così e si scopa, via. Ma ho capito, amico mio, però non si potrebbe in teoria, in linea teorica non si potrebbe. Beh, in linea sono il primo adesso che chiama a dire cose che non no, si ma l'amico Pernat nei giorni scorsi ci ha detto che per esempio lui un paio di volte a settimana, anzi tre volte a settimana, invita delle prostitute che vengono in taxi a casa sua, paga, si fa sbocchinare e via, questo ha detto. Non sto parlando di prostitute, sto parlando... No, lo so, un'altra cosa, però come vengono a casa tua? Con la macchina, col taxi? Taxi, come vengono? In motorino? Come vengono queste ragazze che rimorchi sui siti? Di solito a piedi, in autobus, sono tutte ragazze che abitano qua in giro, io abito nel centro. Ho capito, allora non vengono fermate praticamente, nessuno chiede niente, documenti, cose, dove vai, dove non vai? Da quello che mi hanno detto no. Cioè poi tu scopi più di prima? Io sì. Poi non so, magari c'è solo a me. Ma non lo so, è probabile che sia così. È probabile quell'altro dice viva. Quell'altro dice viva. Ma no, ma chi se ne frega? Ma devi di essere... questo qui che chiama per dire che lui, la sua attività sessuale funziona più di prima. Intanto è un gran maleducato nei confronti anche delle ragazze che vanno a usufruiscono, diciamo così, dei suoi servizi. Ma che una chiama in una radio nazionale autorevole per dire che Giuseppe io faccio più di prima, ma che animale sei? Ma che dove sei cresciuto? Nella giungla? Ma che c'entra? Sta raccontando un animale, un pezzo di vita. Ma sta raccontando macismo imbecille. Anche un ristoratore, quindi se vuoi possiamo parlare anche di quello. Ma ieri sta parlando un dire... pezzo di vita, sta parlando di un suo pezzo di vita che riesce a rimorchiare in questo periodo, perché evidentemente la gente dentro casa sta impazzendo ed è più facile, più semplice che qualcuno, come dire, no, raccolga le sue voglie, no, venga incontro alle tue voglie, caro Francesco. Mi ma come le troveresti queste ragazze? Positivo, no? Ma come le trovi queste sui siti di incontri, ignorante. Giacomo dalla provincia di Varese, vai Giacomo. Dimmi Giacomo. Dimmi. Sì, ciao Giuseppe, ciao Davide. Vai, dimmi. Avanti tutta ciao, Feltri. Dimmi. Avanti tutta Feltri. Addirittura. Mamma mia, ma come si fa? Testa bassa. Vabbè, amico tutta. Mio, però ha detto che sono inferiori, i meridionali, inferiori ha detto ciao Feltri. Feltri può dire quel cazzo che vuole, dai. Diciamocelo chiaro. Ma che vuol dire può dire il cazzo che vuole? Con quel suo poi tono di ironia. Per cui sei d'accordo su questa cosa qua? Avanti tutta. No, poi una cosa seria la vorrei dire, però dimmi. Signor De Luca. Lo sceriffo dei miei stivali. Allora, quando l'8 marzo c'è stata la fuga sui treni verso la campagna dei suoi concittadini, perché lì non hai resto le barricate, i muri? No, ma infatti sei incazzato pure là, ti segnalo che si incazzò. Che ne fa una questione sanitaria, no? Giustamente ne fa una questione sanitaria nei confronti dei lombardi che adesso vogliono andare in campagna. Sì. Perché questi muri, queste barricate, questi lanciafiamme? Non li ha tirati fuori quando i campani stavano tornando giù in campagna, giustamente sua terra doveva essere difesa. Non ricordo quello che disse, mi ricordo che si incazzò comunque, ma quelli dovevano essere fermati da altri però, non è che dovevano essere fermati lì ormai non li potevi più fermare quando arrivavano in Campania. All'epoca dovevano essere fermati da altri, invece si lasciò... E allora ti vuol fermare adesso? Doveva fermare ai tempi come vuol fermare adesso. Fermi tutti. La Zanzara. Anna, ma non credo che questo si possa tradurre così. Anna, culona inchiavabile non si traduce in tedesco. You are not an open book, I can't do nothing about that. But I'm worried, I'm overdrawn, what am I doing up? È normale. Dillo senza paura, dillo dritto che ti piace il cazzo, non fare giri, forse potrebbe piacermi, affascinarmi la figura maschile, dillo, ti difendiamo noi, ho parlato con gli avvocati di A Buon Diritto. Things are going to slide out of control. Il giorno che morirà quel coglione di Polegato e tutti i suoi cazzo di simili, io godrò come un riccio e non provate a venirmi a rompere i coglioni che non si gode della morte altrui. Un fascista di merda come quello, il giorno che muore c'è da stappare bottiglie. Capito? Capito, teste di cazzo? Ma questo è sempre il turco? È sempre il turco? Ma no? Cos'è? Ma sta male, poveretto, forse, perché... Ma è una geremiade, lamentazione. Posso dirti che cos'è? Geremiade. Sono riuscito a risalire all'origine. Si lamenta, poveretto. Allora, non la posizione respira. È questa, tanto per far capire alla gente che ci sta ascoltando, i podcast soprattutto, eccetera. La posizione è questa, cioè il turco, il tuo amico turco, piazzato praticamente nella posizione della pecorina, con il suo gingillo così penzolante, e dietro praticamente si tappa, si fa un piccolo tampone. In maniera soft si mette un tamponcino dietro il turco. Mamma mia, è una cosa scena raccapricciata. Vi voglio anticipare che dopo le 20, prima ci sarà una cosa incredibile fra poco, incredibile, un incontro tra due persone eccezionali, diciamo, a modo loro eccezionali. Dopo le 20 c'è la seconda puntata, faremo naturalmente il solito recap, la seconda puntata del turco che strizza le palle a un cliente, del turco che cui piace il gesto, cioè la tac, tutto, le palle strizzate. Ma bellissimo. È tutto, ma quello non ha mai visto un cliente in vita sua, ma che sei? Ma Alessandro da Treviso, vai Alessandro, avanti. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, avanti tutto, dai, così buonasera che ci hanno rotto quesito, il cazzo. Un quesito per Parenzo, lei è un uomo ebreo. A me piace molto, perché lei ha detto ciao, a me piace molto il suo approccio, perché lei ha detto ciao Giuseppe mostrando una colloquialità, una affetto. E poi come usa lei? Mi piace che lei mantenga la distanza. Mi fa piacere. Questo perché da già si dice ciao Giuseppe, maledetti negri, via. Scusi signor Parenzo, mi piace molto questo diverso registro. Vabbè, allora Alessandro non ho capito. Allora, lei è un uomo ebreo, giusto? Vabbè, sì, è ebreo, qual è il problema? È ebreo, ma non è come dire sei come dice lei è ebreo. Lei è ebreo, non è che gli stai dicendo che è dell'Andrangheta, della nuova corona organizzata. Lei è ebreo, ho capito. Assolutamente, poi il discorso è un'altra cosa. Lei è anche veneto, è di origine istriana, quindi sa benissimo quanto i partigiani comunisti abbiano sterminato il suo popolo veneto qui, e prima di tutto hanno sterminato i partigiani bianchi, quelli cattolici, per poi far razzia verso queste povere gente. Piccoli episodi. Non è la storia della resistenza. Piccoli episodi. Lei è veneto, sa che non è esattamente una cosa da sminuire così. No, non lo sto sminuendo, ho detto che sono piccoli episodi ben raccontati, certo. Vabbè, allora Alessandro, forza, dai, andiamo al sodo, dai. E colto. Come può sostenere che cantare Bella Ciao il 25 aprile sia un gesto patriottico? Certo. Bella, c'è la canzone dei partigiani, tutti un inno al comunismo. Ma qual è il comunismo? Letteralmente comunismo. No, per, no, però nei fatti sì, diciamo la verità. Ha ragione, assolutamente no. No, è un inno al comunismo, ma è normale, ma che è l'inno al comunismo, è l'inno alla libertà. No, ma la cosa incredibile che ha detto partigiano, portami via, no, perché mi sento di, sì, morire, va bene, e poi... se io muoio da partigiano, ragazzi, tu mi devi seppellire. Però c'è una ma che stiamo roba, scherzando? Posso dirti una cosa? Allora, è una canzone straordinaria, meravigliosa. Tu hai detto una cazzata, hai detto che chi non la canta è un nipotino del Duce. Ho detto molto di più, ho risposto a una provocazione. Vabbè, uguale, di Ignazio La Russa, sì, che diceva cancelliamo il 25 aprile. Ho detto che ancora ci siano i personaggi della destra del COVID. Vabbè, ma non c'è nessun onore. Cosa c'entra le vittime del COVID con le vittime della seconda guerra mondiale? Vabbè, niente, ma sì, vuol bene, dire prendere in giro anche le vittime del COVID, vuol dire strumentalizzare pure le vittime del COVID. Poi mi è stato chiesto da questa gentile giornalista, diceva, lei canterà Bella Ciao? Dico, a squarciagola la canterò dalla finestra, perché non scendo in piazza, non si può, ma a squarciagola con la bandiera italiana e quella dell'Europa. Hai fatto a squarciagola, ma cosa a squarciagola? A squarciagola la canterò, a squarciagola il 25 aprile, che oltre a essere il compleanno di mio padre, Giovanni da Messina, faremo gli auguri a tempo debito, vai, dimmi. No, non siamo in onda perché è sabato. Sì, è sabato. Ci sono? Dimmi Giovanni, dimmi. E niente, tu niente. Cruciani ormai ti sei fatto assorbire da un populismo di destra più becero, quindi ma qual è il populismo di destra più becero? Quale questa sarebbe? È la sensazione della gente. Quale? Questa è la gente, è la sensazione della gente, è giusto? Dai, sì, per te, per Meluzzi, Salvini, Giordano, le forze dell'ordine sono tacche, sì, giusto? Ma dipende, ma in generale sì, ma poi dipende dai casi, se qualcuno picca la gente per strada senza senso, no, non sono sacre, le responsabilità individuali, cosa vuol dire? In generale allora, sì, carabinieri numero uno, assoluto, sì, assoluto, qual è il problema? Certo. Sì, nello specifico, quei due che si sono fatti fregare dalla piastrellista, come li definisci? Ma ho capito, non è che si sono fatti dal finto infermiere, dici, da quello che si fa. Certo, allora, sì, amico sì, mio, sì. Però bisogna capire una cosa: i posti di blocco, no? Uno fa un posto di blocco, e arriva un tizio e ti dice, guarda, ho appena finito il turno. Tendenzialmente ci credi. Forse potevano controllare, non c'è dubbio, potevano controllare. Forse. D'accordo, sì, quello gli ha detto, ho finito il turno, quelli si sono messi sugli attenti e hanno detto, giustamente, tu stai facendo un grande servizio al paese. Può darsi, non lo so come siano andate le cose nel dettaglio, ma tu stai facendo per passare per coglioni quelli là. Stai facendo passare per coglioni quei carabinieri. In generale sono bravi. In generale le forze dell'ordine di questo paese sono mediamente qualificate. Ma non lo so. Sì, certo che lo sono, ma mediamente. Ma sì, figurati, e che sono? Come e come sono? Dei mentecatti carabinieri? Come li definisci? Non ho capito. Allora, mediamente il militare italiano è uno che va alla ricerca di uno stipendio. Ma non lo so, ma che cosa vuol dire mediamente? Io non lo so, io ho avuto sempre ho avuto a che fare sempre con gente brava, gente per bene, gente che non certamente delle bestie. Sicuramente sei uno di quelli che non ha mai visto il carabiniere, il poliziotto che alle 8 del mattino entra al bar e mostra la patacca per farsi offrire il whisky, no? Non l'hai mai visto? Cazzo? No, i whisky alle 8 di mattina, penso che sia una roba che nessuno fa, che perché se fa uno più, prende whisky alle 8 vero? Di mattina, un malato di mente alle 8 di mattina, se piglia un whisky alle 8 di mattina. Però Giovanni, scusami un attimo, allora, ti dico una cosa, tu stai facendo passare i carabinieri che sono cascati nello stupido tranello di quel piastrellista come dei cretini, e invece il piastrellista è una specie di eroe che è preso per il culo i carabinieri. No, vabbè, quello è uno scemo del villaggio, figurati. Ma non è che puoi dire che le forze dell'ordine di questo paese sono qualificate, preparate, non c'è l'addestramento necessario. E quei due, nello specifico, sono una dimostrazione. No, vabbè, non lo so. Ciao Giovanni, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. I'm a vampire. How'd you find her? Like a gunshot in a parking lot. No one heard. Marco dalla provincia di Modena, vai Marco, vai. Dimmi, Marco. Pronto? Non ti sento, pronto? mettiti bene. Pronto? Sì, dimmi. Mi senti? Allora, sinteticamente, Vittorione Fiesta è sbagliato con il direttore del libro, però non si pensa di ora in mentale. Non sento niente, non ti sento Marco, non ti sento. Francesco da Vicenza, vai, Francesco, dimmi. Pronto? Dimmi, Francesco, dimmi. Ma come fa uno come Feltri, un direttore di un giornale, di una roba del genere, bravissimo, sì. Super marketing per vendere giornali, e un conduttore radiofonico che ci vede sotto. Pure Giordano l'ha fermato. Pure Giordano gli ha detto, non puoi dirmi una cosa del genere. Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto di quello che state dicendo? Cioè voi state dando... Allora, voi innanzitutto non pensate a una cosa. Tutto quello che viene trasmesso dalla radio televisione italiana ha una, come dire, è puro cabaret. Appartiene al mondo del cabarettismo. Appartiene al mondo del cabarettismo. Fuori dal coro è un programma di cabarettismo. È un programma di teatrale, è un programma di grande teatro, eccetera, eccetera. Lui tutto non quello credo che la pensi così, il conduttore. No, ma Francesco, questo è la base quindi è un di pagliaccio. Tutto. Quindi Mario Giordano non sto dicendo, è un pagliaccio. Ma che è un pagliaccio? Nel senso, il capo del circo. Ma guarda, che anche noi siamo a capo di un circo. Anche noi guidiamo un circo. Ma io penso che anche Giordano si renda conto di guidare un circo. Dopodiché, i protagonisti di questo circo possono dire delle cose serie qualche volta, o delle cose semiserie, o delle cose eccetera. Tutto viene però ridotto a grande cabaret. Anche le cose più serie sono così. Guardate, ecco, ma Feltri non vi fate dirige ingannare. Anche un giornale, chissà, dirige chissà un giornale. Da che parte saresti stato, Giuseppe? Quando, scusa, Nel ventennio, ma che cazzo di domanda è? Ma che domanda è nel ventennio? Da che parte saresti stato? Le affermazioni di Feltri non sono mica tanto distanti dalle affermazioni del ventennio. È uno che ci ride sotto adesso così, chissà all'epoca cosa avrebbe fatto. Non lo so, amico mio, non lo so, non ho la minima idea. Appunto, cioè, non lo so neanche io. Non lo so neanche mi, io. Dicono tra l'altro che il piastrellista di cui sopra ha chiamato questa mattina, dopo due giorni, gli amici, Nicola Savino e Linus sulla DJ, benissimo, ha spiegato tre giorni dopo, chissà perché ha spiegato, gli avvocati, le cose, eccetera. Quello, chissà, diciamo, la voce più originale, no, non l'hanno pagato sicuramente, perché dopo che l'abbiamo sputtanato noi, che voleva i soldi ed era stato contattato forse anche dalla D'Urso, sicuramente non si è fatto pagare da nessuno, forse ci ha ripensato. Ma il punto fondamentale è che le cose più genuine nascono quando nascono all'inizio. Cioè lui ha fatto quel video, dopodiché l'abbiamo chiamato ed era incazzato, era andato appena veniva da una, come dire, da una deposizione dei carabinieri. Ciao. La polizia su quegli scooter. Massimiliano, eccoci qui, Massimiliano! Via la polizia, via la polizia! Ma che dice? Ma non può dire una cosa che siamo a radio e vedere. Noi siamo contro la polizia, contro lo Stato, contro i carabinieri, contro la Guardia di Finanza. Ma che dice? Siamo contro tutti. Ma scusa. Ma perché dice così? Ma quale libertà? Che vuol dire? Facciamo la legge, fai da te. Ma scusa, ma che è la legge fai da te? Ma stiamo scherzando? Ci difendiamo da soli, legge fai da te. C'è Mester Brasile. Quindi lei non ha letto Hobbes? Homo, ora, homini, lupus. Io me lo guardo Fox su Sky. No, Fox Hobbes, il filosofo. Sto vedendo The Walking Dead su Fox, che è fantastico. Fox Hobbes. Homo, homini, lupus, diceva questo grande filosofo. Cioè. Io conosco Samantha Fox. Era una grandissima. Però ti voglio homo, dire homini lupus. Homo, homini lupus, lupus. Cioè ogni uomo, diceva Hobbes, è un lupo per un altro uomo. Ma chi se fa le pippe? Ogni uomo se fa le pippe a vicenda. Scusami. Come stai, come stai? T'ha chiesto bene, caro fratellino. Bene. Scusa, ti vedo però sempre più ignorante. Perché devi dire sempre più ignorante? Ho letto da qualche parte che hai cominciato a leggere dei libri. Che cos'era quel libro che hai detto che stavi a leggere? Ho letto. I fratelli Gosilla, come si chiamano? Karamazov, uno giocava sulla fascia con la Sampdoria e uno sulla fascia con l'Udinese, erano tedeschi, eh? Ma che dice? Non è quello. Ha letto un'altra cosa. Quelli, no, caro, no. No, scusami, no. Presidente, però secondo te sì, i fratelli Karamazov non erano quelli, però ti dico, però no, ci ho fatto il fuoco a Capodanno, ci ho fatto il fuoco con la brace. Ma col libro. Come si fa? Porca miseria. Perché rubiamo la legna, papà Renzo? Avevo finita la diavolina, ci ho dovuto mettere i fratelli Karamazov. Scusami, Brasile. Ma è un libro monumentale, Brasile, quando senti queste, quando vedi in televisione, o vedi soprattutto sull'internet, tua televisione, sì, che cazzo te ne frega, su Instagram, queste cose, immagini di

mi viene il barzotto anche guardando Lilli Gruber o Rosy Bindi in TV. Comunque David, che va solo con la sua signora, può stare pure a casa, ma pure 6 mesi. Però un puttaniere non può stare sempre in quarantena. No, non può stare. Luciani, ma con sta cosa del virus sulla punta della cappella io non ci dormo la notte. Altro che... Allora ragazzi, credo che sia il caso di fare un piccolo recap sull'attività del turco, perché mi ha detto già ieri, ci ha mandato un prezioso audio, ha fatto 3 clienti, dice, nell'ultimo mese praticamente, 3 clienti, dunque qualcosina ha fatto nonostante le restrizioni, eccetera. Qualcuno ha rischiato, lei stessa ha rischiato. Ha ospitato in casa sua. D'altra parte, Parenzo, qualcuno deve guadagnare in questo periodo, no? Cioè, anche, vabbè, anche offendendo la legalità, se così si può dire, offendendo la legalità. Ma questo lo possiamo consentire o no? Lo possiamo consentire alla signora Efebal? No, non lo dovremmo consentire. No, non lo dovremmo, d'accordo? Non dovremmo consentire. Non lo dovremmo, certo, consentire, d'accordo? Però è successo. Che dobbiamo fare? Cioè, è successo, è successo. Ieri così si è espressa Efe. Ricordatevi questo, l'immagine che ci ha regalato ieri, eh? Ieri Efebal. Ho ricevuto un cliente domenica, che lo conoscevo già, questo qua con la scusa che andava a fare la spesa da Italy, è venuto anche a trovarmi domenica mattina alle 11, un signore tra l'altro anziano, quella fascia a rischio, diciamo così, siamo stati insieme, a lui piace che io gli stringo le palle, gli ho stretto le palle per quasi 20 minuti, tu ha pensa, pagato pensa, e poi se n'è andato via. Sì, sì, domenica ho fatto un cliente. Il governo non ci pensa, che devo fare? Adesso dopo il 4 maggio apro la bottega, che non è mai stata chiusa, devo dire, ma non c'era il giro. Spero che dopo 4 maggio riesco a recuperare tutto quello che ho perso in questi 2 mesi, lavorando fisicamente e virtualmente. Un bacio. Seconda puntata, tappate le orecchie ai minori, tappate le orecchie ai minori. Seconda puntata del turco, descrizione di quello che è avvenuto con questo sessantenne, che poi sessantenni sono giovani, cazzo, cioè sessantenne, forse voleva dire settantenne, che è andato a fare la spesa e poi è passato per l'appartamento che è in Porta, che è Porta, non è Porta Romana, vabbè, Porta, mi verrà in mente. Sì, a lui piace che tu gli stringi le palle, ma proprio stringere forte. Più gli si sente male, più a lui piace. Sai che ci sono quelli che magari gli stringi i capezzoli, le tette. Questi invece no, solo le palle, ma proprio bisogna, come dire, cioè li stringo. Capito? Cioè, se qualcuno facesse a me e a te, saremmo morti. A lui invece piace molto. Poi cerca, ecco, di scoparmi un pochettino, visto che ha più di 60 anni, non ce la fa molto. Beh, che il cazzo dire, viene questo? Duro, ma lui non... Però... non è molto abile a scopare e lui gode struscendo il suo cazzo sulle mie cosce. Struscendo cosce. Particolare da fare quando siamo in quarantena da 2 mesi. Ecco, potevo solo beccare un cliente del genere la domenica alle 11 di mattina con la spesa che lui aveva in mano da Italy con la mascherina. Capirai. La realtà. Però tu sai David che io credo che Freccia... trovo schifo, veramente incredibile, trovo vergognoso, una descrizione orribile, ma soprattutto questo cliente è facilmente identificabile, perché adesso la moglie di questo signore, perché non quanti saranno, che alle 11 non è ancora tornato a casa, è stato mandato a fare la spesa da Italy, a parte che state sputtanando anche Farinetti, perché sembra che quelli che vanno da Italy poi, quindi state creando anche un danno, tu e quel turco, sì esatto, state creando un danno a un marchio internazionale quale quello di Italy, del grande comandante Farinetti, che se per caso dovesse avere dei contraccolpi è per colpa tua, perché stai diffondendo il messaggio che un cliente del trans va a prendere i prodotti a Italy e poi va a trans, cioè state danneggiando, come dire, una catena mondiale. niente di male. Ristoranti e quant'altro. Comunque te ne assumerai la responsabilità quando verrai accusato di insider trading, oltre agli altri reati che ti daranno. E questa è la prima questione. Cos'è sto rumore di un frullato? Cos'è? Allora, di prima questione. La seconda è che quel cliente è facilmente identificabile, perché se io fossi la moglie di quel signore e facessi 2 più 2, direi: ma scusa, alle 11 quello non era ancora tornato a casa ed è andato da Italy, dove era finito? Cioè, capisci che stai creando dei problemi anche alle famiglie. Comunque, secondo me in questo momento il format su cui sta lavorando Freccero è i feltri contro tutti, secondo me. Cioè un grande format sul ritorno del nord-sud, di questa guerra nord-sud, della realtà del nord-sud. Naturalmente, stiamo già lavorando con i nostri tecnici, abbiamo messo in piedi il nostro tavolo, naturalmente, tutti fanno tavoli, naturalmente, no? Di riflessione, il Covid, la cosa, io faccio un tavolo creativo invece. E allora abbiamo pensato un grande format che è Vittorio Feltri, naturalmente, sì, che viene prelevato della sua casa di Bergamo, naturalmente, e viene portato con una macchina decapotabile a Napoli e viene lasciato in un quartiere molto molto popolare della città, naturalmente, circondato da telecamere. Viene contestualmente avvisata la popolazione che il direttore di Libero è a Napoli ed è a disposizione dei quartieri popolari della città. Dai, ovvio che non vuole, se no non funziona. C'è quella paura di Feltri che viene imbavagliato, legato, portato in un camion, lasciato in un quartiere popolare di Napoli, in balia naturalmente del popolo. Bellissimo. Balia del popolo, avvertito prima naturalmente, no? Sì, vengono naturalmente avvertiti in tutti i rioni, in tutti i rioni della città, quelli anche più malfamati naturalmente, che ci sarà in città Vittorio Feltri. Telecamere. È tutto in diretta, tutto live, con un grande racconto, il commento dallo studio, la gente che da studio commenta quanto resisterà, lo picchieranno, che cosa succederà, gli sputeranno. E lui da solo, naturalmente, senza potersi muovere, senza telefonino, senza soldi, che barcollerà per questa città, inseguito naturalmente da tutti i napoletani. È la realtà. È così, è la realtà. Sarà la realtà, però. Non si può negare, dai, non si può. La televisione volete fare sempre tutta edulcorata, quella del commissario Montalbano, basta. E Montalbano perché non prende mai il Covid, ad esempio? Ve lo siete mai chiesto perché è sempre perfetto Montalbano senza il Covid? Non è vero, non è reale, dai, non è reale. Ma questa idea di Feltri come è stata accettata, dai, naturalmente? Come è stata accettata? Come è stata presa, diciamo? Stranamente, naturalmente, cacciata. Appena nel sedere da Piazza Mazzini, è una cosa incredibile. È una cosa vergognosa, naturalmente. Questo servizio pubblico che non capisce che dare in pasto al pubblico, naturalmente. Feltri in questo momento riporta una grande ancestrale scontro tra il nord e il sud. Dai, ma non c'è innovazione alla Rai, non c'è innovazione. Parenzo, vieni da Freccero, è meglio di un pompino della mia ragazza. Allora, non so, ragazzi, se la cosa mi fa piacere, però sai, detta Tiziano così. Da Firenze, Tiziano da Firenze, vai, dimmi. Ciao Giuseppe, sei un grande. Dimmi. Purtroppo tu c'hai un collega accanto che secondo me, come si dice da noi, non capisce una sega. Uno non si può permettere a dire su una radio io canto bella ciao la bandiera italiana, sei proprio di fuori come le bombe. Perché se lo fai davanti a me, gliele lega il collo, ce lo strozzo. Perché questi partigiani, perché tu sei leggermente fascista, sbaglio, Tiziano? Appena, io tipo lo zio, ma perché lo zio, grazie allo zio, lui c'ha lo stipendio, lui c'ha la pensione, lui c'ha le vacanze, sua eccellenza, bravo Giuseppe. Sua eccellenza. Il traditore della patria, venduto ai tedeschi. Io mi meraviglio di chi ti paga stare lì. Che io oggi mi sono traditore. Al Gran Sasso doveva rimanerci, al Gran Sasso. E pago anche te, Giuseppe, il numero uno. E le pagherei volentieri, esatto, Giuseppe, ma a te ti pagherei una palata nella festa, ti pagherei. Perché se scusi, ora siamo può ripetere questo. Lei ammira Cruciani, giusto? Lei è un fascista e ammira Cruciani, giusto? Non è un fascista. Io amico Cruciani, certo. Ma per... è corretto. Ma perché lo chiami lo zio? Corretto, perché lo chiami lo zio, scusa? Perché io vengo da Predappio. A Predappio lo zio è lo zio, Giuseppe. Sai la storia, no? Quella cantante. Non si preoccupi, che presto ci finirà pure lei lì. Non si preoccupi, guarda, non si angusti. Guarda, presto lo raggiungerà lo zio. Non si preoccupi, senza problemi. Non si deve preoccupare. Il titolare del Radio 24 ti devi inginocchiare, perché uno come te non si manda nemmeno nei campi a raccogliere le patate. Io non so come fa a pagarti. Ma la schiena, ma che scherziamo? Io non so come fa a pagarti a uno come te lì. Noi in famiglia pagavamo una radio, appena il telefonista ti ha permesso di dire certe cazzate come fai te. Ma noi in famiglia abbiamo smesso di fargli lo sponsor, abbiamo smesso di fargli pubblicità. Una radio. Ma che famiglia è? Ma scusi, la vostra famiglia che tradizioni liberali ha? Nessuna, mi pare. La vostra radio. Carissimo, noi abbiamo 7 dipendenti, tutti in regola, e paghiamo tutti i mesi. E ora che sono a casa, ti credo. Che io sono a casa, carissimo pastorello, quello non gli dà lo Stato, gliene diamo noi, capito? Perché siamo gente seria. Fai il tuo dovere. È perché non ti trovo per la strada, perché sennò ti darei tanti. Fai il tuo dovere. Eia, vaffanculo là. Eia, vaffanculo là. Bisognerebbe tu ci andassi te. Perché non capisci proprio una sega della fascistello, vita, fascistello, tu e le tue patate. Perché sei un grandissimo ignorante. Fascistello, tu e le tue patate. Le tue patate, te le darei nella pelle. Oh partigiano, portalo via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E una mattina mi sono svegliato. E ho trovato l'invasor. Fermi e tutti, io muoio, fermi tutti. A parte. Giovanni da Milano, vai Giovanni, dimmi. Giovanni, dimmi Giovanni. Buonasera Parenzo, buonasera. Vai, dimmi. Io ho chiamato in risposta a un ascoltatore che vi ha chiamato credo mezz'ora fa, Giovanni, dove ha sparato a zero su carabinieri, forze dell'ordine, citando il piastrellista e le varie cose. Da prendere le distanze, ragazzi, lo dico non soltanto a voi in radio adesso, ma a tutti quelli. Siamo seduti su una polveriera, ragazzi, su un vulcano che sta per eruttare. Che vuol dobbiamo dire? Andarci tutti quanti in una regolata e capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma che vuol dire? Questo è un discorso generico, cosa è giusto, cosa non è sbagliato. Che vuol dire? Cioè, chi prende per il culo le forze dell'ordine come ha fatto quel piastrellista, secondo me sbaglia, punto, ragazzi, e basta. Stiamo raggiungendo un livello dove per strada stanno rimanendo gli sbandati, stanno rimanendo persone pericolose. Io quotidianamente ho la fortuna in queste settimane di lavorare, esco di casa e qualche pensiero ce l'ho, e cara grazia che ci sono in giro le forze dell'ordine, perché anche ad arrivare sul mio posto di lavoro, che in un punto che nonostante sia centrale è ormai poco bazzicato, poco trafficato, c'è da avere dopo le 6:30, 7 di sera all'imbrunire, c'è da aver paura. Ho capito, ma è chiaro che è chiaro, perché le persone che escono in questo momento sono persone che non hanno magari una casa, o persone che se ne sbattono i coglioni delle forze dell'ordine, perché tanto chi se ne frega, una multa in più, una multa in meno, e barboni, ma non perché i barboni siano pericolosi, semplicemente perché tu magari vedi un pericolo, oppure delinquenti che se ne sbattono le palle di essere fermati. Cioè, è evidente che è così, per cui, a parte che io qua a Milano, almeno nei posti dove vado, non vedo nessuno, però lo capisco, Giovanni, ma questo discorso dove porta? Porta al fatto di dire che, avendo voi un grandissimo potenziale mediatico, non vi dico di moralizzare le persone, ma fategli capire, ragazzi, bisogna avere un senso della misura, un senso del giusto e un senso del sbagliato. Io a 35 anni, con un bambino che ha 4 mesi, nel momento in cui mi succede qualcosa, da un punto di vista di danno al nostro paese, è un danno enorme. Ma cosa c'entra adesso con la gente che va in giro, che tu vedi in giro? Non riesco a capire il nesso. Il nesso è il seguente, ovvero dobbiamo capire che in questo momento è di estrema difficoltà. Bisogna capire, quando diciamo spariamo a zero sulle forze dell'ordine. Ma chi spara a zero sulle forze dell'ordine? Chi lo dice? Chi lo sostiene? Nessuno. No, la persona che poco prima, Giovanni, adesso non ricordo esattamente l'orario dell'intervento, ma più o meno mezz'ora fa. Ma sì, ma ogni tanto c'è qualcuno che dice che noi siamo in dittatura, eccetera, eccetera, e queste stronzate qua. Fermo. Ho capito perfettamente. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto. Ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enphone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi. E puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enphone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enphone.com/promo. La zanzara. Oh no, la Mukina è finita. Ci penso io, va. Ecco Mukina. Già la usavo, ma adesso di più. Perché tutto questo allarmismo, che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. E la gente. Già lo usavo, ma adesso di più. Mascherina no. La mascherina no. Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. Già la usavo. Insomma, mangiate le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Prince. Faida, jindillah, yadukkuhum dakkan, yadukkuhum dakkan. Eccolo. Noi il 2 giugno andremo lì. Andremo lì il 2 giugno a Roma, a Piazza Montecitorio, e saremo migliaia, se non centinaia di migliaia, se non milioni, a dire a questo governo: te ne devi andare, perché tu non puoi lavorare in questo termine, fatti condizionare da queste organizzazioni internazionali. E poi quando noi ti diciamo: la gente sta morendo di fame perché è chiusa in casa, non lavora più, stampa la moneta, la nostra moneta, e dai la moneta che non ti costa niente. E noi quel giorno, il 2 giugno, davanti a un'assemblea popolare che spero sia di 100.000 persone, di 1 milione ma di persone. Ma dove? Noi diremo al popolo, dove? In Tunisia? Dove? Lo approvate voi. Lo approva il popolo. Il popolo. Se il popolo approva l'impeachment, noi prendiamo un corriere, sì, lo mandiamo subito alla Corte Costituzionale, sì, sicuramente, perché inizi subito il processo contro tutti questi abusivi e contro questi che hanno commesso i reati: riduzione in schiavitù, epidemia, falsa epidemia. Dovranno essere tutti quanti giudicati inesorabilmente. Lo approva il popolo! Il popolo! Il generale Pappalardo, caro David, il generale Pappalardo, Pappalardo. Ci sei o no? Ci sei o no? Roba da pazzi. Nicolas da Lecce, vai Nicolas, dimmi. Nicolas. Nicolas. Ogni volta che sporadicamente ascolto questo programma, sì, dimmi. Una marea di puttanate. Sì, non c'è dubbio. Una allora, marea di puttanate. Dunque, non c'è dubbio. Dunque, va benissimo così. Volevo dire, fare la critica a Parenzo che rompe le palle dicendo che ci deve essere più decoro. Va benissimo che il programma, certo, sia così. Decoro, va benissimo, certo, che ci siano le, vabbè, puttanate. Dunque, che cosa hai chiamato a fare? Cosa hai chiamato a fare? Dicevo, volevo dire questo, giusto per accontentare anche. Sembra che sto attaccando subito Parenzo. Sì, però amico mio, bisogna che il tuo telefono sia messo meglio, bisogna che ti metti in una posizione più degna, bisogna che non c'hai viva voce all'auricolare, non si sentiva un cazzo, dai, forza. Dai, dimmi. Adesso si sente, sì, tutto? Dimmi. Ok, grazie mille. Allora, dicevo, volevo dire a Parenzo appunto di questi, cioè, andare non con lui appunto contro, non c'è parente, non c'è. Non è andato via. Fabio, non mi hai rotto il cazzo. Fabio da Rieti, vai. Fabio, dimmi. Pronto? Dimmi Fabio, dimmi. Scusate, stavo a mangiare. Giusto. Per i coglioni sempre a mangiare. Giusto. Allora, giusto. Senti, giusto, due cosette. Dimmi. Allora, una al piccoletto lì con gli occhi da panda, sì. Un consiglio. Sì. E una cosa per te. Sì, è un suggerimento per te. Sì. Allora, il piccoletto, quando il 25 si affaccia dalla terrazza, sventola la bandiera italiana e con quella europea si pulisce le terga. Assolutamente le terga. No, anzi, insieme le tengo. Le tengo insieme poi, perché sono bandiere di libertà. Insieme, bandiere di libertà. A te l'Europa contro di merda. Le dittature. Allora, poi, l'Europa nasce contro le dittature. Poi, nazismo, fascismo, siamo comunismo. In dittatura. Piccoletto, ma quale dittatura? Siamo in dittatura. Poi, l'unica, la dittatura tu. Della stupida, delle scemenze che dice. Quella è l'unica dittatura che lei ha. Tu comunque sventola quella italiana e ti pulisci il culo con quella europea. Tutt'altro. Quella europea la sventola orgogliosa. Dimmi. Invece di fare la solita domanda per chi avete votato, cominciamo a fare la domanda. Lei lo capiamo. Vuoi stare o uscire da questa cazzo di Europa? Vedrai. Io ti pagherei in lire, guarda. Un bel sondaggio. Io ti pagherei in lire. Io ti pagherei in lire la tua pensione. Io te la pagherei cretino, in lire da domani. Cretino, da domani in lire te la pagherei. Cretino. Somaro d'un somaro. In lire te la pagherei la tua pensione. Intanto l'Università di Berna sostiene che il vaccino potrebbe essere pronto a ottobre ed è una possibilità realistica. Non ci credo, ma vengono diffuse ormai notizie di qualsiasi tipo. Non ci credo. Comunque questi svizzeri sostengono che la possibilità di successo è realistica, eccetera, eccetera. Vogliamo chiamare il professor Becchi? Che dici? Professor Becchi? Lo chiamiamo, professor Becchi? Becchi. Chiamiamolo, dai. Oggi si è fatto pizzicare dalla polizia, è incazzato come una merda. Attenzione che c'ha un po' di problemi al cuore, About all that you feel. Think about all that you give. Think about all that we do. So let me end with solid. Sì, pronto? Paolo? Sì? Sono Cruciani, come andiamo? Cosa vuoi che ti dica? Oggi mi sono incazzato perché. Ma che è successo, appunto? Spiegami. Ma niente, sono uscito, ma semplicemente per andare a comprare le medicine, sai che c'ho questo problema qui della pressione, sì. E già che c'ero ho detto vabbè, compro due o tre cose da mangiare, mi ha fatto la cosa delle spese, la lista della spesa, non, qui nei vicoli io non vado nei grandi negozi, cioè se posso vado nei negozietti, no? Sì. Puttane non ce n'è più, ma insomma giri un pochettino così comunque. sto parlando dei vicoli, no? Non c'è più. Sì. Mi trovo davanti uno sbarramento di 10 poliziotti davanti. Io un po' impaurito, cioè, dico, ma qui che cazzo? Mi sembrava di ritornare ai tempi degli anni 70, dico, ma io non ho fatto niente, pistola in tasca non ce n'ho. Dico, non capisco. Poi mi si avvicina uno, addirittura superando il metro, e dice. Con tutta la mascherina, lei non ha la mascherina? Dico no, non ho la mascherina, ma non c'ho nessuno intorno, guardi, non sono da ci avete voi adesso, ma sono qui da solo. Però è obbligatorio o no? No, non è obbligatorio. No, al momento a Genova non è ancora obbligatorio. E niente, però avevano delle pistole, insomma, ecco. E cioè erano pistole, armati. Cioè, come ti hanno trattato? Vabbè, questo certo, è il punto. Polizia armata. Questo qui mi dice subito fuori i documenti. Ma io dico i documenti. Io non ce n'ho documenti, come lei non ha dei documenti? No, cioè, sto qua a 200 metri di casa e tiro fuori le pastiglie e dico guardi, sono andato a comprare le medicine, guardi come si dice, la ricevuta, c'è l'orario. No, non mi interessa, guardi che la portiamo in commissariato. Mi dico ma per che cosa? Certo. Cioè, non capisco. Perché non hai documenti. Io dico vabbè, non ho il documento di riconoscimento, dov'è il problema? Cioè... Non è che sono andato in America, sono uscito di casa. Ma chi ce lo dice che lei sta lì? Ma dico, vabbè, guardi, le do il mio nome e cognome, cosa vuole che le controllate dica? Controllate voi, certo. Dico, Paolo Becchi, dico, Becchi non si capisce, Becchi, no, dico Becchi, piccola B di Bologna, non so che cazzo dire. Controllano, mi dicono, sì, lei sta in via Valle Chiara, cosa ci fa qui? Ma dico, ma scusi, cosa ci faccio qui? Sto andando a fare la spesa, cioè, sono 200-300 metri, non è che sia andato, non lo so, alla foce, sono qui attaccato, sono nei vicoli. È un casino, insomma, mi bloccano lì una mezz'ora, che mi hanno fatto alzare la pressione, tra l'altro, perché sono un soggetto cardiopatico, queste cose. Sono arrivato a casa che stavo male, non ti puoi immaginare, cioè, ma stavo male non tanto per quello che mi è successo, per il modo, come posso dire? Da stato di polizia, da stato di polizia quasi, dici tu, sì, è da tempo che sostieni questa cosa qua, no? Che siamo praticamente in una sorta di... Ma un momento, un conto è sostenerlo in maniera teorica, tu dici vabbè, che si è bevuto il cervello, l'ha sostenuto, ecco, sì, esatto, che è possibile, esatto, anche, esatto, no? Esatto, però esatto, quando, bravo, quando sì, lo bravo, sperimenti, bravo. Quando lo sperimenti sulla tua pelle. Sì, ma professore, cos'è che hai sperimentato sulla tua pelle? Dei normali poliziotti. Non nel regime. Il trattamento. Ma no, ti hanno chiesto i documenti, non li avevi e si sono accertati chi fossi. Non solo non avevi il documento per uscire, cioè quella cosa che dovresti portarti dietro, ma in cui scrivi dove vai e perché. Ma neppure i cazzi di documenti di identificazione avevi. Ripeti la mente. Ma per quale motivo mi devo trovare alle 9 di mattina delle persone che mi vanno a chiedere i documenti come se fossi un terrorista? Ma perché chiunque deve portarsi dietro i documenti? Chiunque si deve, ha l'obbligo di portarsi dietro i documenti, sai? Durante capito, il periodo però, del dai. Terrorismo a Genova, dove c'erano le brigate rosse, sì, queste cose non succedevano. Ma e c'erano che stai i brigatisti che sparavano nelle strade, eppure queste cose non succedevano. Ma stai paragonando questo periodo? Ma cosa? È peggio questo periodo di allora, perché allora la Digos erano intelligenti, sapevano chi andare a bloccare e chi non era il caso di bloccare. Ma qui invece stanno bloccando il popolo intero, scusate. Ma quale popolo? Eri senza nulla. Allora, eri un signore con la barba che barcollavi allora, per Genova. Ma hanno detto, ma chi cazzo è questo qua? Gli hanno chiesto 70, i documenti, non li aveva. Scusami, c'ho quasi 70 anni, che cazzo appunto. Posso aver avuto nella borsa della spesa, dai, su. Ma non nella borsa, perché c'è un decreto che dice che ma si può uscire di casa. Me ne batto il cazzo del decreto, va bene? Perché te ne sbatti il cazzo? Ma perché questi decreti sono del tutto illegittimi. Ma sono cosa c'entra? Aspetta, amministrativi, da stato di polizia, soltanto uno stato di polizia può basare la limitazione della libertà personale, della libertà di movimento, soltanto sulla base di atti. Ma cosa dici? Ma tu non hai portato i documenti perché sei ritornato. Ma tu hai, non ti sei portato i documenti non per fare una battaglia civile, ma perché sei rintronato, questa è la motivazione. Scusami, secondo te il documento c'è sempre a prescindere dal coronavirus. Allora, c'è una polemica su questo, Paolo. Allora, aspetta. Questo insegna pure diritto. Dimmi, Paolo. Negli anni 70 quello che hanno fatto l'hanno fatto attraverso quello che si chiamavano le leggi speciali. Il Parlamento aveva approvato leggi durissime, ma erano leggi. Cazzo, qui si mettono praticamente in galera con delle ordinanze firmate da un sottosegretario del Presidente del Consiglio. Ma chi ha messo in galera? Ma che dici? Questo è terrorismo. Stanno distruggendo che cosa con questa roba qua? Ma secondo me stanno distruggendo l'organizzazione del costituzionale complessiva. Cioè, dove non c'è riuscito Monti... Perché Monti era un'emergenza economica e ci sta riuscendo con un'emergenza sanitaria Conte. Ma Parenzo, Monti è stato uno dei migliori presidenti del Consiglio assieme a Romano Prodi, che hanno consentito di provare a tenere i conti in ordine. Non posso intervenire ulteriormente perché faremo altro debito pubblico autorizzato dall'Europa. Ma che cazzo dici? No, il debito pubblico. Ti sto dicendo che la pressione, grazie all'Europa faremo altro debito pubblico. Ciao Paolo, la pressione, oggi. Mi raccomando, ciao. La pressione. Ciao. La Zanzara. Così come abbiamo annunciato, desideriamo adesso rivolgere una preghiera per tutti i nostri defunti, per tutti coloro che sono morti anche a causa del Conad, ma soprattutto per coloro che nella solitudine ci hanno lasciato. Il Conad. Conad, il Conad. Roberto, no, da Salerno, vai Roberto, mamma mia. Dimmi Roberto, dimmi. Non c'è? Dove andiamo? Mario da Catanzaro, vai Mario. Cruciani, io ti ascolto, figurati, ma dimmi. Tu non puoi dire che inventare cazzate, perché Feltri ha detto la seguente cosa. Sì. Ha detto i meridionali in molti casi sono inferiori, quindi non si riferisce all'economia. Io dico quello che lui poi ha spiegato rispetto a questa fase qua. Ma questa frase qua. Ma non c'è. Oggi ha detto non c'è niente da spiegare, c'è da chiedere scusa, non c'è oggi da spiegare, ha detto, c'è oggi da dire ha detto. Ho detto una stronzata. Voi come prendete troppo capita, sul serio dire le cose, prendete no, troppo. Ma tu lo difendi, io non ho capito, io capisco. Voi prendete troppo sul serio. No, perché allora, ma non dico questo. Indifendibile. No, ma non hai capito ancora. Ma come si fa a radiare quest'uomo? Come si ma fa a radiare? Non so. Radiare, poveretto, ma ormai, ma chi allora, prende siccome per voi sul siete, serio libero? Siccome voi questo siete fissati tema su questa cosa qua, allora vi dico semplicemente una cosa. Siete quelli che però, quando si tratta di altri, dite, beh, però poi ha detto, poi ha specificato qua. Allora, Feltri ha detto oggi, mi pare del tutto evidente che il sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al nord. Magari non è quello che ha detto ieri, Chi non lo riconosce è chi lo non riconosce in malafede. L'antropologia ma non c'entra con Giordano, i portafogli. Ma non c'entra niente quello che è scritto, ha detto. Noto? Ieri Giordano ha detto andresti a Napoli, ma a Napoli a fare cose, il parcheggiatore abusivo. Bravo, come se a Napoli vero, tutti bravo facessero ragazzi i parcheggiatori abusivi. Bravo. È un uomo che usa solo luoghi comuni, ma lo faceva Giuseppe, sui migranti. Giuseppe è sempre offensivo. Lo ha fatto ragazzi, tutti luoghi comuni, ma è l'uomo allora, del ragazzi, luogo ma di, comune. Ma di cosa state parlando? State parlando? Ma l'hanno denunciato Ruotolo, il sindaco di... Ma è una puttanata a rinunciare per una cosa del genere. Non c'è un popolo meridionale, che offesa è, ma che roba ma è, ma è ridicolo, ma il razzismo dire, sono le leggi che si occupano di razzismo. Ma tu sei di Roma, non è che sei di Bolzano, ma che cosa c'entra? Non è che uno è di Roma e allora uno è più vicino a Napoli piuttosto che uno di Bolzano. Cosa c'entra? Non c'entra una mazza questa roba qua. Ti sto dicendo un'altra cosa. Uno può giudicare malissimo queste cose. Io non penso, non direi mai che i meridionali sono inferiori. Il punto è un altro. Chi oggi lo attacca di razzismo, lo denuncia in tribunale, lo vuole cacciare da qualsiasi consesso umano e civile, eccetera. Queste sono puttanate. Perché esiste perché una cosa in ma Italia, perché per fortuna, anche lo hate speech negli Stati Uniti, che è il discorso di odio, negli Stati Uniti sono non molto difesi. Ma lui è il direttore di un giornale, ma dopodiché, ma fai il delirio a Hyde Park. Ma dai, cosa su, c'è? Lo stai descrivendo, no, lo stai descrivendo come il matto che va ai Hyde Park Kona a fare il suo comizio. Io dico una cosa. Ma la radiazione, ma che roba è? Ma cosa vuol dire? Questo può essere. Ma lo radieranno magari, ma sai che cazzo gliene frega di essere radiato all'ordine dei giornalisti alla sua età? No, ma sai che cazzo che gliene frega essere radiato? Ma cosa vuol dire? Ma è una stronzata, Mario, non ho capito. Ha detto una cosa, l'ha specificata, l'ha spiegata, magari una spiegazione come dice spiegare. È una spiegazione pelosa perché naturalmente ma non c'è niente da spiegare, è un delirio. In molti casi adesso vi faccio riascoltare tutto. Mario, fermo, stai là, fermo tutto, fermo. Allora, riascoltiamo ieri da noi il direttorissimo, vai. È abbastanza chiaro che spesso nel meridione si soffre di un complesso di inferiorità. Io invece non penso che soffrano di un complesso di inferiorità, penso che siano inferiori. Nel senso che tutta la loro economia è un disastro, da decenni, direi da un secolo, tentano disperatamente di risollevarsi e non ci riescono, quindi evidentemente c'è un gap che non riescono a colmare, ma non mi sembra una cosa così... Sì, così strana, diciamo, così nuova, diciamo. Cioè è la fotografia della realtà. Devo dire la verità che risentendo sin da ieri il direttorissimo da noi ha spiegato il senso di questa roba qui, cioè non è già io perché poi gli avevo chiesto, adesso non è integrale, veramente è tagliata solamente la parte di Feltri, scusa, ma come quando dici inferiori che cosa intendi? E lui dice beh, perché economicamente questa è la roba. Ragazzi, però adesso se vogliamo stare alle dato che siete così puntigliosi, dato che siete così precisini e non vi volete fermare al ma titolo, ma io lo accuso di usare solo luoghi comuni, di dire delle fesserie. Ieri ha detto da Giordano, uno va a Napoli a fare il parcheggiatore abusivo, Mario, come se ci fosse Mario, solo hai, quella professione. Hai sentito, anche ieri è così, anche ieri aveva detto queste cose, da te, voi siete bevuto 7 grappe, esagerato. Aspetta, io non lo so, ma uno sarà pure libero di diversi ha detto così, poi dopo non ha detto così. Ma dopo non ha specificato, però più o meno la storia no, quella, ha detto dai quello che ha detto David la cosa dei napoletani è razzismo, ragazzi. Ma che razzismo, ma non, dire, non diciamo no, cazzate, beh, sono luoghi comuni, non è razzismo, è follia, razzismo? Allora, follia, metodo feltriano, allora tutto, dai. Come quando disse gli immigrati portano le malattie, i suoi titoli, un classico, Feltri. Vabbè, ciao, ciao, allora, ma... ciao. Allora, caro David, dobbiamo fare una telefonata. Dobbiamo fare una telefonata addirittura a un vice ministro. Ecco, però usiamo quello che si chiama un dress code. Un dress code, visto che è un uomo del governo. È il vice ministro alla salute, dunque una persona molto importante in questo momento, che ha avuto il coronavirus, peraltro il Covid, ma è una storia vecchia, l'ha superata per sua fortuna. Si chiama Sileri, che è al centro, è stato al centro di una querella, di una polemica. Le Iene hanno fatto un servizio in cui hanno scoperto che la moglie lavora per un'azienda che ha vinto un appalto con l'ospedale Umberto I di Roma per la vendita, credo, di mascherine. Tutto un e casino, non era vero, conflitto di interesse. No, ma non era vero. Non era vero. Un'inchiesta del cazzo. Ma che cazzo come dici? Ma questo lo dici tu. Ma non era. Un'inchiesta non vera. Ma è vero, tutto è vero. Tutto ma non falso è vero. Era. L'azienda esiste. Non l'ha c'entrava vendute niente la moglie. Ma l'azienda lo so, c'era, non c'entra niente la moglie di Sileri. Ma una dicono, puttanata. Le Iene dicono come di fecero sì sul caso Stamina. Come fecero su Stamina. Una puttanata. Hanno le prove. Loro dicono di avere. Spesso gli capita. Loro dicono di avere le prove che lei lavorava come agente. Come agente. E Stamina dice di no. E stamina, ma che c'entra stamina? Stamina? Ah, sei un coglione, sei. Mamma mia. Vediamo Sileri, vai. Che ci aspetta, se no se ne va. Pronto? Eccoci qua, avanti tutta. Eccoci. Sono Cruciani, come andiamo? Bene, come va? Beh, è il tuo amico Sileri, Parenzo, è il tuo amico Sileri, il tuo amico ottimo di 5 amico, Stelle. Vice, no, un amico, amici, ottimo adesso... vice ministro. Amici e diversi, cioè amici, ci siamo visti un paio di volte, non è che siamo amici. È un bravo vice ministro della così, salute. Sei quindi sempre così, bravo. Ma questo è fuori di dubbio. Sileri, lei si dovrebbe sì preoccupare. Non perché vorrei danneggiarlo. No, perché Parenzo dice bravi per praticamente questo a tutti. Basta che uno no, ha un ruolo, lui no dice bravo. No, ai sovranisti no, ai sovranisti. Sovranisti no, stai pur tranquillo, caro. Vabbè, io l'abbiamo chiamata per una cosa, però, caro Sileri. Allora, grazie. L'abbiamo chiamata per questo, perché sì è esploso questo caso delle Iene, del caso mamma di sua mia moglie. Sì, è vero. Allora, innanzitutto, lei non sta pensando a dimettersi, diciamo che non mi dimetterò cosa, perché... Dai. E per cosa? Guarda, beh, per cosa? Voglio dire, se io mi sono sposato con una che lavora per una ditta, per un rivenditore, e che è un'impiegata di terzo livello, sì, e che ovviamente gira gli ospedali e quant'altro, ma non è un agente, e fa il suo lavoro da 12 anni, ma che fa? Finisce di fare quel lavoro perché si è sposata al vice ministro e rimando a casa a stirare le camicie? No, o vabbè, non ma so, questo, ma figuriamoci, allora, a me non me ne può fregare. La gara che dice Filippo è una gara del 2017, che ha fatto una, diciamo, una preaggiudicazione nel 2018 a settembre, e si è conclusa ad aprile del 2019. Dieci giorni prima no, della sua... Sei, così no, dicevano. Sei mesi prima. Sei mesi 29 prima aprile 2019. E dov'era sua moglie, scusi? Sua moglie dov'era, Sileri? Mentre c'era questa trattativa con Umberto I. Ma mia moglie lavorava, voglio dire, ma parliamo del 2017-2018. Cioè non c'entra dopodiché niente con la storia del coronavirus, nulla di nulla. Ah, 2019, ecco, ma no, aprile 2019. Dopodiché, ovviamente, come purtroppo succede in tutte le gare d'Italia, chi perde la gara fa un ricorso. E hanno fatto un ricorso. Ah, lei sta dicendo che le cartucce alle Iene sono arrivate dalle ditte concorrenti. Questo lo sta ma dicendo. Immagino proprio di sì. Ti do del tutti. Secondo te il certo conflitto di interessi non esiste, questo conflitto di interessi tra un vice ministro, la vendita delle mascherine, diciamo, la vendita delle mascherine e la moglie non esiste, ma è un'impiegata di terzo livello, ma quella fa quel lavoro, voglio dire, è un'impiegata di terzo livello, peraltro, cioè non conta un cazzo, si può dire nel linguaggio nostro. Beh, non conta, ascolta, povera moglie, voi mi avete sempre visto sempre preciso, puntuale, voi mi avete chiamato perché ho detto troppe parolacce. Dice. Sì, mia moglie purtroppo non conta un cazzo lì, però mi fate pure ridere, ma non conta niente, è un'impiegata di terzo livello, la quale ho capito, ma non dica così, poverina, ascolta, ma poverina, ma voglio dire. Peraltro, ascolta, peraltro mi viene pure da ridere perché diciamo nel video che ha mostrato Filippo hanno fatto pure un diciamo un taglio particolare. Però non è male tua moglie, devo dire la verità, è una bella donna. Ma non è quella, ma è come ti permetti? Ah, è sbagliata, è più brutta no, di quella che no, fermi, la foto che hanno mostrato non è mia moglie, quella è una senatrice di 5 Stelle. Ma si dice dei 5 Stelle col quale abbiamo visitato. Ma ascoltami, ma ascoltami. Beh, ti dico che mentre andava lì in video mi chiamano i miei peccato amici, però, dice, ma che, peccato ma però, che, non ma è che hai divorziato. Magari sua moglie, appunto, certo. No, no, fatto sta che non è che c'è stata una storia manco con questa senatrice dei 5 Stelle, mai, no, per carità. Anzi, un'amica, ah, ecco, no. Scusami, tu l'altro giorno hai detto, io sono un runner, no, corro. L'altro giorno hai detto no, sta stronzata di 40 minuti. Cosa. Ma chi ha detto la stronzata di 40 minuti? Ascolta, risentitevi l'audio, perché io ho detto, ho fatto un esempio, ho detto basta quei 200 metri intorno casa, perché uno che questo deve fare attività fisica deve fare pure di più, purché lo faccia in solitaria. Cioè, ora, se uno deve correre 200 metri è una cosa, se vuoi correre 40 minuti, perché ho preso me come esempio, che siccome c'ho un po' di panza, sì, e siccome si più, vede, di 40 sì minuti non riusci, si vede, non so, più di 40 minuti non riuscirei a farli, ho detto se vuoi fare 40 minuti falli senza limite di spazio, nel senso arrivi, fai 40 minuti e torno. Vabbè, ma lo sai come da sono i titoli della cosa? Massimo di 40 minuti. Ma chi mai ha detto 40 minuti? Io penso che l'attività fisica debba riprendere dai primi di maggio, secondo l'esigenza individuale. È chiaro, parlo non agonistica, nel senso quella agonistica poi si vedrà in altra vabbè maniera. Basta farlo in solitaria, no? Basta farlo in solitaria. Però se tu vuoi farti due ore di bicicletta, due tre ore di bicicletta, ti lo fai in solitaria, ti puoi fare due ore di bicicletta, questo è importante, due ore di bicicletta, basta che non diventa una scusa per stare fuori tutto il giorno. Ma scusa un attimo, secondo te quanti con lockdown quanti morti abbiamo evitato? Con lockdown diverse migliaia, perché tipo, un studio no, tipo di qualche settimana fa, tre settimane fa si fermava in poco meno di 40.000 morti evitati, ma molti di più. Voi pensate, guarda, è facile secondo me fare un estrapolare, è vero che voi ci pensate sono 6 milioni di contagiati, ci potrebbero essere questo, oggi se questo è un altro, non lo so, perché questo è un altro studio, chi ha detto un milione, chi ha detto 6 milioni, chi 8 milioni, lo sai come lo scopriremo? Quanti sono secondo te? Verosimilmente, guarda, ti metto una forchetta ampia, fra le 15, fra le 10 e le 20 volte il numero dei contagiati riscontrati. Quindi probabilmente se noi abbiamo 100.000, 180.000, direi che probabilmente siamo intorno ai 3 milioni e mezzo probabilmente, tra i 2 e i 4 milioni. Però vedi, come fai a dire i morti evitabili? Allora chiudiamo gli occhi, torniamo indietro e facciamo finta di non aver fatto il lockdown. Sì. Quello che hai visto in Lombardia, moltiplicalo per le altre regioni. La Lombardia ha 5-6 milioni di abitanti, avremmo avuto più o meno la stessa cosa per tutta Italia, quindi moltiplicalo per 10. Scusa un attimo, ma ti chiedo un'ultima cosa, ma se ne sento di tutti i colori, no? Virologi che dicono una cosa, altri che dicono il contrario, test sierologici, tamponi, eccetera, eccetera. C'è una cosa su cui tu hai, al di là della questione del vaccino, c'è una cosa su cui ha speranza il vice ministro della salute? C'è un farmaco che davvero funziona? Ogni giorno se ne sente uno, ogni giorno un ospedale dice che sta lavorando su questo, quello plaquenil, quell'altro che funziona meglio di altri, uno che funziona meglio di altri. Si sta lavorando ovviamente a molti, diciamo, a molti protocolli di ricerca. Ma uno che ti convince? Ma secondo me quello che mi convince di più, leggendo ovviamente la letteratura e l'esperienza, è quello del plasma con gli anticorpi dei soggetti guariti. Ma comunque il vaccino lo resti obbligatorio tu? Io se ce l'avessi oggi, certo, non avrei dubbi che in certe categorie di persone lo metterei obbligatorio. Ciao, a presto, grazie. Ciao, grazie. Ciao, buon lavoro, grazie a saluti voi. Ciao, grazie. Ciao, saluti. Ciao. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Sandra da Pordenone, vai. Momento serietà, piccolo momento serietà, piccolo momento serietà. Mi spiace pure il vice ministro, mia moglie non conta un cazzo, ha detto sulla storia, non conta un cazzo. Si è adeguato al linguaggio che ha trovato in questa osteria, diciamo. Sandra, dimmi, è stato Sandra, molto dimmi sincero. Ecco, buonasera, volevo solo dire che è vergognoso che il signor Becchi venga trattato così, mentre nelle città grandi ci sono tutti gli extracomunitari che girano. Eccola qua, eccola qua. Ecco la nonnina. Ecco la nonnina in soccorso dell'altro. Ecco la nonnina. Ecco la nonnina con la borsa che dà le borsate. La nonnina che dà le borsate. Forse arriva lei. Le borsate, ha detto, le borsate. Le borsate. Con le borse. Sa, la nonnina con la borsa. Screanzato, screanzato. Trattato in questa maniera, ma è incazzata la signora. Ma qual è che questione di italiano non italiano? Lei che vede tanti italiano. Lei vede tanti negri. Lei invece, lei vede la tanti nonnina negri della Wehrmacht. Ci abbiamo la nonnina della Wehrmacht adesso. No, dai. Aspetta. Scusa, io sto parlando con lei, non voglio parlare con quell'altra persona. Scusami, Sandra. La nonnina di Salò. La nonnina di Salò. Era in giro per Milano. Giusto. Ha preso le sassate. e non c'era un vigile, non c'era un carabiniere, non c'erano. Ecco, e questa è una vergogna. Dai, su, dai, questo bisogna dirlo, caro Parezzo. Ha detto, dice Sandra, che i negri sono in giro, tanti extracomunitari di colore a spacciare, giusto Sandra? Mentre il professor Becchi viene fermato da cordoni di polizia, giusto Sandra? È quello che ecco, ho detto. Giusto. Capisci? E questa è una vergogna. Non sai rispondere a questa signora, tu, Davide. Non sai semplicemente alla simpatica nonnina di Salò. Vorrei dire che se uno non rispetta le regole, sia esso bianco, nero o il professor Becco Becchi, si becca la reprimenda della polizia. Chiunque non rispetta le regole, ha capito, cara la mia nonnina della Wehrmacht? Ma cosa lo dica a sua moglie. Cosa? Nonnina. Cosa? Cosa lo deve dire a sua moglie? Cosa? E ha detto a me fanculo, che vado a dirlo a lei, a sua no, moglie. No, ma non mi sono per... non l'ho mandata a quel paese, signora. Ho detto semplicemente che lei è la nonnina di Salò, la no, classica non sono nonnina. Sono una persona che ha vissuto anche all'estero. Vabbè, e che cazzo c'entra? È uguale per tutti. Cioè, lei, appunto, Sandra dice, esatto, ma quindi Sandra non è che Becchi. Ho capito, cosa ma Sandra c'entra? Dice che vede circolare Sandra un sacco dice. Di extracomunitari, ma cosa un sacco di negri in giro. E cosa fanno? E che fastidio le danno? Non, ma, non ho capito, cosa ma magari fanno? Feltri la può pensare così. Che risponda Feltri. Vittorio, ci sei o no, Vittorio? Allora, ecco qua. Allora, rispondi un po'. Bravo. Ecco, appunto. Ma io penso che questa signora abbia ragione. Quello screanzato che continua a dire i negri sono oggetti. Sono un problema. Se uno è negro, è negro. Negro. Se uno è negro, bisogna poter dire che è negro. Ma io devo essere difesa da una persona che è. Che rappresenta la legalità. Ho capito, allora, ma scusi un attimo, Sandra, ma Feltri, allora voglio capire, Vittorio, ha ragione Sandra o non ha ragione? Ma per certo concluso? Che ha ragione, ma è ovvio che ha ragione. Se uno è un negro ed è uno screanzato, deve essere cacciato. Cioè, girano troppi negri in questo periodo. Girano liberamente per le città, saltando sulle piante, mangiando le banane, buttando le bucce di banana, poi passano queste nonnine, scivolano sulla buccia di banana del negro ed è evidente che costituiscono un problema, mi pare. Ha ragione Sandra, hai ragione, ha detto Feltri, che ti devo dire, cioè guardi, questa è la rovina dell'Italia. Chi è la rovina dell'Italia? Chi è? Tutta questa legge che non è uguale per tutto italiano, non c'è dubbio, e appunto sì, italiani, sì, sì. Italiani, voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Metallica, provate a dire Rolling Stones. Rolling Stones non viene.